Guardami, ama, mi ama, mi bacia, mi morettino, que estoy ya morendo per la tua bocchina. Mangia! Nel sugo sei fresca, molti, che viene l'acqualina. Succhia! Sei come una mela, dolce rubiconda, che mi sta dicendo non mordere tanto, non ser goloso, e succhia, ma succhia più sapporoso, e abbraccia forte la tua morettina. E mi sta dicendo, sì, baciami, baciami con gran ardore, no, che un solo morso non ha sapore, ma così, sì, ti dice la tua morenina. No. Mirami, quiereme, besame morenita, guardami, amami, baciami morettina, ahai, baciami. Ai, ai, ai, ai. Guardami, guardami, amami, amami, baciami morettino, che sto già morendo, mamma, per la tua bocchina. Mangia! Il sugo sei fresco, morti, che viene l'acqualina. Succhia! Sei come una mela, dolce rubiconda, che mi sta dicendo non mordere tanto, non ser goloso, e succhia, ma succhia più sapporoso, e abbraccia forte la tua morettina. E mi sta dicendo, sì, baciami, baciami con gran ardore, no, che un solo morso non ha sapore, ma così, sì, ti dice la tua morettina. Ma no! Mirami, quiereme, besame morenita, guardami, amami, baciami morettina, baciami morettina, besame morenita, baciami morettina, besame morenita. Ai, mordimi morettina.